sapone in cantina passerà. Lei lo sa, polpetta. La polpetta filologa lo sa, fa la doccia salata e s'abbronza di notti stellate e patate. Mi bacerà, lei lo sa, dove si va. Polpetta, cuore in fiamme, tra succhi, umori e liquori, chissà se mai ci riuscirà. Sì, polpetta addolorata, un cuore di polpetta ti aspetta.